sono stanca di sbagliare e di bruciare il tempo, di calpestare ogni morale e poi gettarla via. Se Dio ha barato a mio sfavore, dovrà saldare il conto con la mia anima a carbone di carne d'anarchia. Se trascino la mia ombra nera è perché io ne vado fiera, cerco ancora me. Vedrai come sempre il lato scuro solamente. Non ho paura di cambiare e di restare ancora un edonista radicale, mentre qui non cambia mai. Così trascino la mia ombra scura che non ha patria né bandiera, somiglio ancora a me. O di chiedermi chi è quel volto scuro in fondo al mare, se assomiglia a me. E giro nuda sotto un acquazzone, senza divise, più nessun padrone, come la vita fosse solamente una battuta divertente. E che gran fatica senza alcun compenso, e che il mio cuore rimanesse pietra e la mia anima di seta.